ancora bere due bicchieri. Stasera pago io, stasera pago io, e poi andrò a cantare al suo balcone. Amici, amici, quello è il suo balcone. Adesso le farò una serenata. Guardate la finestra, è ancora illuminata. Colei che mi lasciò non può dormire. Che vuoi, vecchia portiera, e lasciami cantare. Stamattina. Amici, amici, andatevene via. Vi prego, voglio rimanere solo. Stasera pago io, stasera pago io.